giorno, all'improvviso, come un uragano, come un lampo appare, la luce della passione già scritta nel tuo cuore, bella più del sole, inchiostro illuminato, lettera d'amore, ogni parola è una favola, ogni fotogramma una nuvola, scrive su corpi sudati la sua storia di sogni proibiti, dalla mattina alla sera abbracciati da un bacio di mille chilometri, preziosa scultura di sensuali barometri, notti d'orgasmo indelebili, spada che va oltre i limiti, 24 ore su 48, settimane eterne, il tempo si ferma solo per noi e non ci importa niente della gente. Decisamente sfiora gli altopiani e infiamma l'orizzonte, fa ballare il mondo l'amore, da una girandola a una sorgente che ti prende. Ogni momento è oro, ogni parola un romanzo, una poesia omonima, un'autostrada che lega la memoria all'anima. Solo un minuto senza di te potrebbe essere un calvario. Nostra fortuna è questo tessuto di seta, di cielo. Passeggiare con te è sublimare il tempo. Quando la sera ricopre la luce, il giorno è il vento. 24 ore su 48, settimane eterne. Il tempo si ferma solo per noi e non ci importa niente della gente. Decisamente sfiora gli altopiani e infiamma l'orizzonte, fa ballare il mondo l'amore, è una girandola, una sorgente che ti prende. Un giorno, all'improvviso, come un uragano, come un lampo muore, la luce della passione.